Sì, pronto? Buonasera, dottor Feuss, Buonasera. sono Alessia, come sta? Ma insomma, adesso un po' sta calando la febbre, ma stanotte è stato. Oh, mi Cosa si è? dispiace, mi dispiace dovergli fare l'intervista se non sta bene. No, vabbè. Ma adesso sto bene. La mattina non ce l'avrei fatta, quindi è inutile. Capito. Allora, le domande io cercherò di farle vertere un pochino sul nuovo libro che è uscito di Michela Murgia, però riprendendo un po' anche quella che è stata la vostra esperienza, la vostra amicizia, il vostro rapporto. La prima domanda riguarda un po' proprio come vi siete conosciuti, quando sono iniziate le vostre anche collaborazioni e quando avete deciso di creare quella che è una famiglia queer. No. Allora, proviamo a mettere in ordine le cose. Nel 2004 ci siamo conosciuti, ah, in grosso modo a Cuneo, alla Festa Europea degli Scrittori. Lei era esordiente, io no, quindi ci siamo incontrati là e poi, come dire, è stato un rapporto abbastanza continuo. Sotto molti aspetti. Quindi sì, il 2004. Come dire, boh, i progetti insieme sono arrivati un po' così. Intanto il primo progetto vero e proprio in cui abbiamo collaborato è stato abbastanza. Sa che non la sento bene, che va a scatti. Adesso. Provi a dire qualcosa, a continuare a parlare. Vediamo C'era un se. progetto Sì. su cui abbiamo lavorato in maniera, diciamo così, scientifica, è stato a Cappadocia, nel senso che quando lei stava scrivendo a Cappadocia era molto lungo. E quindi cioè con Inena, con editor e con me, insomma, abbiamo lavorato per renderlo quello che poi è diventato, cioè lei ha lavorato. Però, insomma, primo, diciamo così, punto di collaborazione, specialmente per questioni che riguardavano l'apparato linguistico, la scuola parlo italiano e così via, insomma. Quindi mi sente? Un po' a scatti in realtà, non riesco bene a capire il motivo, però effettivamente la sento un po' a scatti. E È così? non lo so, e se riesce a continuare a parlare, probabilmente riusciamo. Pronto? Sì, Eccoci. eccoci. Sì, adesso va decisamente meglio. Sì. Quindi questo, poi in verità io sulla dentro la cui family mi ci sono trovato senza che nemmeno sapessi esattamente di cosa si parlava. In realtà, nel senso che noi avevamo comunque un nostro preciso rapporto parentale, quindi io sono semplicemente stato cooptato a un certo punto, quindi niente di più, ecco, questa è la famiglia d'elezione, è proprio un progetto tutto di Michela, con alti e bassi, con situazioni. E comunque già in Accabbadora c'era abbastanza tutto, insomma, questo tipo di attitudine, no? Quindi Cavadore è un libro sul fine vita e sulla famiglia d'elezione. Queste due cose. Invece Michela, come è diventata dall'essere una collega subito ad essere amica? Cioè, quali erano le caratteristiche per cui vi siete trovati? Ecco. Ah, beh, secondo me come la schiettezza sostanzialmente. Sì, direi questo. Siamo entrambi due persone poco formali e quando c'era bisogno di impostare una discussione lo facevamo con tutti i crismi, senza risparmiarci. Quindi sì, questo è stato sostanzialmente poi appunto questo, come si può dire, c'era anche un'attitudine affettiva, in qualche modo io ero una specie di fratello maggiore, quindi insomma, questo. C'è una sorta di, quando parla di schiettezza, c'è un esempio che si può fare? Magari di una situazione in particolare che ricorda, magari anche con affetto, guardando Ma indietro. sì, beh, per esempio io non ero molto, molto convinto che Kiru fosse riuscito benissimo, insomma, ecco, quindi, e ne abbiamo discusso di questo, insomma, è stato una. Cioè, dopo Cappadora, la tentazione è sempre quella di far uscire qualcosa velocemente, secondo me, insomma, quella non era esattamente il taglio di Michela. Io sono un appassionato di Ave Mary, insomma, quella zona lì, ecco, non credo che sia esattamente il coté di Michela. Ho capito. E gli elementi che, su cui avete litigato in particolare era a No, livello. non abbiamo litigato. No, no, non si non era un litigio, era proprio una questione No, per me era un libro sostanzialmente debole, e narrativamente debole, ma il punto è che, come dire, Michela non amava fare la narrativa, in realtà, le piaceva molto di più occuparsi di tutto il presente, del commento del presente, quindi questo è un po' una discussione. È stata una grandissima scrittrice e quindi alterna come narratrice, non so come dirlo, capisci? Sì, Questo era certo. sostanzialmente. Il nuovo libro, Ricordatemi come vi pare, In memoria di me, è uscito ad aprile ed è stato scritto da Beppe Contafavi, scrittore, umorista e curatore editoriale, che si è occupato anche del romanzo Tre ciotole. E come descriverebbe lei questo testo che è uscito, cioè è una biografia a tutti gli effetti? No, mi sembra un'intervista sentimentale sostanzialmente. Non so se. Cioè, è una testimonianza su Michela con molte delle sue affermazioni su temi salienti, su temi importanti. Non è un libro di Michela, chiaramente, però insomma lo è da altri punti di vista, ecco, quindi è un po'. Ma trattandosi di Michela non mi sorprende niente, insomma, no? Cioè lei riesce anche a fare un libro senza scriverlo, anche dicendolo, perché poi è davvero un libro che contiene molte cose belle, molte cose importanti. È un libro di Michela, ma lo è da, cioè non è un libro di Michela, ma lo è da, altri punti di vista intende che non l'ha scritto lei, però raccoglie buona parte o comunque elementi importanti della sua vita. Beh, l'ha detto lei, quindi mi sembra assolutamente giusto, plausibile, no? Quindi. Mentre il sottotitolo all'interno c'è una specifica solenne e sfacciato come era lei. Lo volevo intitolare Il mio primo libro postumo, ma il secondo, quindi lei non l'ha scelto, questo perché probabilmente non aveva in mente di pubblicare quello precedente, quindi dare la vita, o è così? È probabile, sì, è probabile. Ok. È probabile. E, su questo tipo di meccanismi, diciamo così, prettamente editoriali, è più attendibile Giammei, Alessandro Giammei, insomma, di quanto possa essere io, perché è Alessandro che si sta occupando, diciamo, quindi del patrimonio, Murgia. Quindi non lo so se lei non avrebbe voluto scriverlo. Il precedente, io so che esisteva un progetto che si chiamava Quid pro quo, sostanzialmente, quindi che dare la vita è un titolo, non so se, no? Presumo che quello è una scelta editoriale, così, quindi questo è quanto rispetto ai postumi. Ho capito. E invece per quanto riguarda la figura, il modo in cui lei si descrive o perlomeno in cui racconta di sé, poi viene riportata, parte della sua vita viene riportata all'interno di questo testo che ha detto che potrebbe essere più un'intervista sentimentale. Lei si descrive per ogni capitolo come utilizza, diciamo, ogni capitolo descrive una parte di lei, si descrive come una persona estremamente sfaccettata, figlia d'anima, cattolica, studentessa, lettrice, lei leggeva tantissimo, lavoratrice, narratrice all'inizio e poi scrittrice, politica, attivista e madre in senso molto ampio. Com'era Michela per ciascuno, diciamo, di questi elementi? Cioè, per lei il rapporto, per esempio, con la fede rispetto a quella che era la sua attività di attivista, la sua attività politica, com'è che riusciva a far conciliare le due cose? Lei era più credente, lei era decisamente credente, quindi era una cattolica praticante, quindi anche questa è una differenza che c'è tra noi, insomma. Quindi ma appunto, basta leggere appunto Ave Mary, basta leggere Gossette Queer e così via, cioè il rapporto tra la religione e la libera scelta. Da questo punto di vista lei l'ha sviluppato per bene, cioè ha davvero tentato di spiegare quali fossero i punti di contatto, no? E soprattutto ha cercato di spiegare che è falso pensare che, per esempio, una queer family elimini la famiglia naturale, cioè eliminazione. Il progetto di Michela, è un progetto di comprensione, tutto sommato, cioè di apertura, per cui esiste la tua famiglia, quella di sangue, quella su cui non puoi in nessun modo, cioè, discutere, esiste, c'è, ti hanno fatto e così via. Però lei dice, uno deve avere il diritto di abitare in un posto dove la propria felicità se la può costruire. Quindi questo era, per esempio, una cosa che mi sembra abbastanza ben spiegato. La sua scelta di formare una queer family è stata una scelta un po' di rottura a livello sociale. Vivere anche all'interno del mondo cattolico e fare questa scelta ha creato delle, non so come dire, delle difficoltà nell'ambiente in cui lei abitava. Certo, c'è una linea di cattolici che chiaramente non gradivano questa attitudine, cioè altri sì, cioè c'è una teologia molto, molto progressista e molto liberale, soprattutto i donne, tra l'altro, quindi la Forcates, per esempio, così via. Quindi direi che il discorso si limita al fatto che non è un peccato in nessun caso, cioè frequentare le persone con cui stai bene, sostanzialmente. Lei ha parlato spesso della sua esperienza, cioè di figlia di anima, d'anima, e del fatto che ha in un certo senso cercato di riproporre la stessa esperienza anche lei stessa, adottando appunto quelle che erano, diventando madre in senso più esteso anche di altre persone. E come l'ha segnata o la sua esperienza legata all'età dell'adolescenza in questo senso? Beh, credo molto, certo che sì, cioè lei voleva in ogni caso costruire una condizione per cui non, cioè generare un'alternativa, capito, a chi non ce l'aveva in questo senso. Considera che i figli d'anima di Michela sono tutte persone che hanno scelto liberamente di esserlo, nessuno di questi è stato coercito o in qualche modo obbligato, capisci? Quindi non, alcuni sono persone straordinarie, appunto John May, appunto Francesco Leone e così via. Quindi non, e nessuno di questi ha, come dire, ripudiato la propria famiglia, nessuno proprio. Sembra complicato, ma di fatto è un progetto semplicissimo. Lei poi si è definita lettrice, lavoratrice e narratrice, e tutto questo secondo lei l'ha resa un'intellettuale. Lei all'inizio non vuole definirsi scrittrice, si sente intellettuale e narratrice e spiega all'interno di quel capitolo, o meglio paragrafo del libro, qual è la differenza fra narratrice e scrittrice e secondo lei, secondo come l'ha conosciuta, che intellettuale era Michela? Beh, era un intellettuale nel senso aureo del termine, cioè una persona scomoda che aveva idee proprie e le esponeva, che non si adeguava, diciamo così, alla vulgata, e che appunto faceva quel mestiere che dovrebbero fare gli intellettuali in questo paese, che invece non fanno, sono. La scomparsa degli intellettuali in Italia è davvero impressionante, quindi infatti già l'assenza di Michele è molto rumorosa da questo punto di vista. Secondo lei, rispetto a quelle che sono state gli ultimi episodi recenti legati alla limitazione della libertà di espressione, per esempio Roberto Saviano con il programma che non gli è stato permesso di mandare in onda, Insider, oppure quello che è accaduto il 25 aprile quando Antonio Scurati non gli è stato permesso di leggere il suo monologo in prima serata su Rai 3, cioè questo, lei come l'avrebbe vissuto, cioè lei nel testo fa sempre riferimento al fatto che c'era già da tempo, lei parla di 30 anni a questa parte, una sorta di tendenza a guardare con ostilità a livello, diciamo, di chi ha il potere, le persone che cercavano di dire effettivamente come fosse la realtà. E questo, quello che è accaduto ultimamente, non fa altro che in un certo senso confermare quello che sosteneva lei. Assolutamente. Sì, certo. Assolutamente, è abbastanza. Cioè, è quello che sostengono gli intellettuali attivi, sostanzialmente, non quelli passivi, non quelli asserviti. Quindi, cioè, era assolutamente così. Cioè, sono perfettamente d'accordo. Cioè, lei, intellettuale, Michela come intellettuale, nel senso che era in grado di leggere il presente e capire come avrebbe potuto svilupparsi in futuro. Beh, leggere il presente era davvero la sua propensione migliore, proprio. Era imbattibile da questo punto di vista, anche da un punto, no, per quanto riguarda intravedere le conseguenze, prevedere le condizioni. Quindi sì, questo era il suo quid, assolutamente. Ci sono degli esempi che lei ricorda? La questione, come si chiama lui? Sono un po' confuso. La questione dei militari, no? Dell'affidare a militari delle soluzioni che invece dovrebbero essere democratiche, dovrebbero essere in Parlamento e così via, insomma. Quindi, questa è una cosa che lei disse a suo tempo, Figliolo, il generale Figliolo. Quindi lei affermava che chiaramente se tu devi ricorrere ai militari per risolvere un problema, evidentemente la democrazia si è un po' depressa, insomma, cioè c'è un qualche problema, ecco. Quando invece si guarda Michela più come autrice e lei si descrive come narratrice e non come scrittrice. Io sono del parere opposto, che lei fosse più scrittrice che narratrice, in realtà. Oh, perché? Poi, perché sì, perché narrare, per narrare occorre una distanza che lei non aveva, lei era sempre in prima linea, era completamente. Quindi sì, direi che per quanto mi riguarda era l'opposto. Non vi siete mai confrontati rispetto a questo Sì, punto certo, insieme? come no? Sì, alla E grande. quali difficoltà lei viveva come intellettuale? Prego? Quali difficoltà viveva come intellettuale? No, non vedevo difficoltà, eh. No, no, no, lei, Michela, quali difficoltà viveva come intellettuale? Beh, Angosce. In questo senso. la responsabilità di essere magari l'unica che si prendesse la briga di commentare una certa situazione, quindi insomma la solitudine. Voi vi siete mai trovati in comune su questo punto? Cioè, è un elemento che magari sentivate e che avete in comune? Spessissimo, certo. Sì. Beh, tutta la battaglia per Mediterranea, per le navi al porto, insomma, abbiamo fatto varie cose insieme da questo punto di vista. Sì, certo. Che cosa, secondo lei, passando invece a quella che era la sua attività, che poi in realtà è molto vicina anche a quella di scrittrice o narratrice, la sua attività sembra una ripetizione da attivista, quindi il suo agire, la sua azione attraverso la lingua performativa. Nella vita politica lei si candida e l'esperienza del candidarsi come l'ha segnata, diciamo, anche a livello narrativo, avendola conosciuta da tempo, probabilmente sa. Beh, l'ha segnata abbastanza, gli ha messo, le ha tolto qualche illusione rispetto, per esempio, alle idee che lei aveva sulla Sardegna, anche un po'. Io sono più. No, io sono un po' più cinico da questo punto di vista, quindi non avevo. Michela aveva di buono che coltivava anche qualche illusione, per fortuna, quindi era interessante questa cosa. Illusioni rispetto a che cosa? Beh, rispetto al fatto che si potesse intervenire in Sardegna con altri sistemi, cioè, no, cioè, lei è proprio si è scontrata contro i poteri locali in maniera precisa, c'è anche rimasta sotto, perché in ogni caso Michele ha preso tantissimi voti in Sardegna, ha preso 70.000 preferenze, quindi. Però la legge elettorale sa che anche se tu prendi 70.000 preferenze, ma il tuo partito non è in coalizione, non ce la fai. Quindi, insomma. Guardando sempre l'aspetto politico, nel testo fa riferimento a un capitolo a il fascismo e la memoria corta delle persone. Lei sostiene che cioè lei percepisce e dice che studiando quello che è accaduto, la storia da 30 anni a questa parte, come ci fosse una deriva, no? Già verso questo. Cioè, come finito il fascismo non fosse cambiata quella che era la mentalità e che negli ultimi 30 anni fosse emersa. E, su questo punto, che cosa emergeva dalle vostre conversazioni? Io ero d'accordo con lei sostanzialmente, perché il punto è che l'accusavano continuamente di vedere fascismi dovunque e così via, però lei diceva bene vedere un fascismo di capirlo affatto, capisci qual è il problema? Assolutamente d'accordo, in realtà Sa che non la sento bene, ancora adesso torna a ecco. scatti. Scusi, ma non sto molto bene qui. No, certo. Allora, no, Prego. dicevo che lei pensava appunto che era meglio denunciare più fascismi piuttosto che non denunciarne affatto, capisci? Piuttosto che vergognarsi di questa situazione, veniva attaccata su tutti i fronti, cioè, ecco qua, vede fascismo dovunque, ma dov'è questo fascismo? E così via. Oggi mi sembra che sia piuttosto chiaro questo fascismo. Quindi, Da cosa lo anche vedeva? Da cosa lo vedeva già da tempo lei questo fascismo? lo vedevamo tutti un po', in verità. Cioè, lei lo vedevamo dall'attitudine, dal fastidio per la libera espressione, nel tentare di addomesticare le cose, eccetera. Noi, insomma, facciamo un lavoro molto pubblico, l'editoria, la televisione, e così via. E quindi tocchiamo con mano proprio in che modo in qualche modo chi ci governa tenta di spostare l'asse, no? Del pensiero sociale, insomma. Quindi per noi era abbastanza chiara questa cosa. C'è in particolare un episodio che è stato forte in questo senso. Quando uscì il manuale per diventare fascisti, il famoso, come si chiama, il famoso questionario, no? Qui Sì. tu. Molti si arrabbiarono, dissero, ecco, è una semplificazione, e così via. Però in effetti era semplicemente molto provocatorio. che è quello che deve fare un intellettuale, appunto. E quali furono le conseguenze? Quali furono le conseguenze? Salvini l'attaccò pubblicamente, insomma, ministro degli interni, che commenta uno scrittore, un intellettuale, mi sembra abbastanza, no? Fuori dagli schemi, anche perché non è che sia la stessa potenza di fuoco. Uno scrittore è un cittadino comune, il ministro degli interni è il ministro degli interni, insomma c'è una bella differenza, ma che sono escurati è sullo stesso piano, sotto certi aspetti. Che reazione c'è stata dal mondo dell'editoria, dai colleghi per Michela? E poi magari se c'è stata, magari lei lo sa, una reazione anche più compatta adesso per quello che è adesso, per quello che è accaduto il 25 aprile, cioè è cambiato qualcosa? Lo sai che no, proprio no, però non devi fidarti di me da questo punto di vista. Io sono, ecco, una grande differenza tra me e Michela era proprio questa specie di, io ho una condizione di attenzione perenne, invece Michela si lasciava andare a entusiasmi strepitosi e poi vabbè, quindi in alcuni casi le cose andavano bene, in altri casi la deludevano tantissimo, eccetera, perché lei era davvero una che consumava rapporti da questo punto di vista, no? Cioè, dava un'opportunità a tutti e poi magari decideva che non era un'opportunità ben spesa. Ecco, io invece sono un pochino più barbaricino da questo punto di vista. E in che senso la consumavano? Ci sono state delle situazioni in cui magari dato fiducia a delle persone che poi in quel momento di, diciamo, difficoltà non sono intervenute a Per sostenerla? esempio, oppure persone che la usavano come dire, per la visibilità, anche quello. Quindi quando lei parla, per esempio, nel terzo ultimo capitolo parla della Corea e parla di questo terzo spazio che ha conosciuto grazie ai K-drama e poi al avvicinarsi alla lingua coreana e ai BTS, e lei inizia, dice, a viene colpita sia dalla lingua che non presenta il genere grammaticale. Quando lei è abituata invece a una lingua che ha questi generi grammaticali che portano a una serie di discriminazioni, lei poi arriva a parlare di BTS come un gruppo che prende ad esempio per le relazioni che creano, che fanno tutto insieme, che danno un modello di relazione positiva. Questa idea che lei sembrava quasi che cercasse una relazione positiva è dovuta anche a questi rapporti che ha avuto. Ah, certo, sì, certo. Guarda che una contraddizione di Michela era che, nonostante fosse una persona completamente, come dire, in sé, completamente precisa nel suo pensiero e nelle sue opinioni, però aveva allo stesso tempo questa specie di entusiasmo ingenuo, no? Cioè si lasciava prendere dall'entusiasmo dei progetti. E così via. Per cui, ecco, ripeto, è una persona che ha vissuto davvero tantissime vite. E quindi questo era un po' il suo tallone d'Achille, sostanzialmente, una forma di, come dire, di vanità che le impediva di vedere quando aveva a che fare con persone negative, o perlomeno di vederlo subito, se se ne accorgeva poi abbastanza presto, ecco, però. E per esempio. Beh, no, non faccio nomi, non ti faccio esempi in questo senso, ma ce ne sarebbero un bel po'. E neanche Faccio situazioni. faccio un esempio contrario, per esempio Saviano, per esempio Chiara, Valerio, per esempio Teresa Ciabatti, cioè quelle erano persone su cui lei ha investito e ha investito magnificamente, l'hanno molto amata, lei li ha molto amati e così via. Quindi il Beh, resto no. che rapporto che aveva con lei? Che... Sì, beh, no, il rapporto che avevo con me era un rapporto, come dire, statutario, nel senso che io ero una specie di senatore dentro la Queer Family, esistevo, ero ontologico, capisci? Quindi non è che c'era molto da discutere, cioè noi non c'è stato mai un momento in cui non esistevamo, non so come dire, quindi è così. E ha detto che non fa esempi di nomi, e lo capisco, ma c'è, ci sono delle situazioni magari che si possono descrivere. Ma no, preferirei di no, onestamente. Capisco. Perché capirebbero, insomma, se sono questioni abbastanza pubbliche, Conosceva lei questo amore che aveva per la Corea, che ha sviluppato poi, Sì, soprattutto sì, sì, nell'ultimo sì, sì, sì. periodo? Che cosa riesce a dirmi su Discussioni, io questo? gli ho dato proprio, mamma mia, per me erano. E lì è davvero era come quando si parla con un anziano. Io non capivo veramente che cosa avessero di interessante questi ragazzetti, però rispettavo il fatto che lei ci avesse fatto, come dire, un suo progetto sopra, e quindi ho persino cominciato ad ascoltarli da un certo punto in poi. Ah, e che cosa ha capito che poteva No. interessare a Michela, di loro come gruppo? Cioè, nel libro sembra quasi far riferimento a una sorta di speranza politica e critica che lei avesse nei loro confronti. Sa spiegarla? Guarda, onestamente non ho. A loro come alla lingua? Sì. No, beh, appunto, sono sempre step di una ricerca che lei fa e che fa in maniera provocatoria, sostanzialmente, quindi ha senso. Sono comunque una famiglia d'elezione, hanno un linguaggio, come dire, politicamente corretto tra loro, sono non binary, non gender, quindi ecco, questo era un po' l'universo che Michela voleva esplorare in questo momento qui, ecco. Perché Michela era così attaccata a questo progetto? Beh, probabilmente perché se qualcuno le avesse aperto questa opportunità quando lei era giovane, no, la sua vita sarebbe stata diversa, cioè. No, lei è davvero. Io credo che lei sia stata relativamente felice da un certo punto in poi, però si è fatta felice, che è una cosa molto complicata, non è così semplice. È una che ha in qualche modo perseguito la propria felicità in maniera davvero precisa, ecco. Quindi, caspita, sì. Beh, la Corea e i coreani erano uno step di questo progetto, di questo grande sistema, di questo disegno che avevo in testa. Quindi era legata a questi temi perché ha vissuto delle esperienze che in passato, per cui se avesse avuto maggiori libertà, sarebbe stata subito felice. Questo era il suo progetto, era quello Ma di diventare. guarda, non è solo una questione di libertà. Lei avrebbe fatto molto più in fretta se avesse avuto a che fare con persone tolleranti. Quindi questo è tutto un lavoro che lei ha dovuto fare in seguito nella sua vita, cioè ha dovuto reperire in assenza, cioè le cose che non aveva, che non si erano sistemate. e così via, capisci? È nata in una società piuttosto chiusa e quindi davvero, ripeto, Michela è una che ha conquistato tutto con le unghie e con te, e non, nessuno le ha regalato niente, ma in generale gli intellettuali veri, nessuno regala niente. Lei come descriverebbe Michela? Come la ricorda? Come una sorella, con tutte le con tutte le tutto ciò che ne consegue dell'essere fratello. Io sono figlio unico, non ho mai avuto fratelli né sorelle, quindi lei c'era. A breve ricorrerà, oggi siamo all'1, il 3 sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 52 anni e c'è in programma qualche cosa relativa alla sua Sì, al Teatro ricordo. Carcano di Milano. Al Teatro di Carcano di Milano. Io sono di Milano e non riesco a tornare. Quando sarebbe? Il 3. Ah, Il 3 proprio giugno. il 3. Sì. E che cosa consisterà quella serata? Una serata di auguri, come dire, una serata dedicata a Michela, con me, con la Ciabatti, con Alessandro Giammei. E poi ho qualche altro che adesso non mi viene in mente. Devo cercare di rimettermi al più presto. Sì, per favore. In che cosa consisterà? Che cosa avete in programma? Ah, no, niente di. Ci sarà un filmato e poi commenti, chiacchiere, discussioni, letture, ecco, queste cose qua. Letture di suoi testi o Sì, anche. preparerete voi qualche di dei Prepareremo anche noi discorsi? qualcosa, sì, dedicato. Riesce ad anticipare qualcosa? No, no, io ho scritto un pezzo che leggerò in anteprima. Ok, non ci sono quindi anticipazioni No, o di no, nessun figurati, tipo. mi ammazzano. No, no, sia mai. Allora io penso che più o meno siano emersi tutti i temi principali del testo e mi dispiace non essere riuscita intanto a trovarci, cioè che non siamo riusciti a trovarci e che non sia stato bene, quindi terremo, Accidenti. no, veramente, terremo conto anche di questo. Adesso proveremo a sistemare comunque anche l'audio in modo che si riesca a sentire Grazie. bene. E niente, spero di sentirla presto. E un'altra cosa, è possibile seguire magari l'evento del 3 online o è solo in Sa che presenza? non lo so. Ah, pensa che sia possibile saperlo o in qualche Ma credo, modo? beh, credo che se lei si collega al sito del Teatro Carcano ci saranno tutte le informazioni in merito, presumo, perché davvero non lo so. Va bene. E se lei sa se sarebbe possibile anche parlare in un secondo momento anche con Alessandro Giammei nel caso più Credo proprio avanti? di sì. Non so se c'è la possibilità di avere un contatto, ovviamente, dopo aver sentito o ottenuto quello che è il suo Sì. permesso. Io lo posso chiedere, non c'è Sì, per problema. cortesia, grazie. E allora la ringrazio e le auguro di riprendersi il prima possibile perché il 3 ci deve essere. Va bene, buona Grazie davvero. serata, grazie Arrivederci. mille.